Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. Sarebbe molto gentile, disse K al pittore. E il giudice le crederebbe e nonostante ciò non mi darebbe una soluzione reale. Gliel'ho già detto, disse il pittore. D'altra parte non è del tutto sicuro che chiunque mi crederebbe. Qualche giudice chiederà per esempio che io la porti in persona davanti a lui. Allora una volta dovrebbe venire con me. In un caso simile, d'altra parte, la causa è già vinta per metà. Specie perché io naturalmente la istruirei prima bene sull'atteggiamento da tenere di fronte al giudice in questione. Più difficile è con quei giudici che mi respingono fin dal principio. Anche questo succede. A costoro, anche se non mancherò certo di fare numerosi tentativi, dovremo rinunciare. Ma potremo anche farlo perché singoli giudici non possono avere peso decisivo. Quando sulla mia dichiarazione avrò avuto un numero sufficiente di firme di giudici, con questa stessa dichiarazione andrò dal giudice che sta istruendo il suo processo. È possibile che io abbia anche la sua firma. Allora tutto va avanti un po' più alla svelta del solito. Ma in generale a questo punto non ci sono più molti ostacoli. Per l'imputato è il momento della maggior fiducia. Strano ma vero, a questo punto la gente è più fiduciosa che dopo la soluzione. Ora non occorre più darsi molto da fare. Con la dichiarazione il giudice ha la garanzia di un certo numero di giudici. La può assolvere senza timore e senza dubbio lo farà, per un piacere a me e ad altri conoscenti, dopo avere però espletato varie formalità. Ma lei esce dal tribunale ed è libero. Così sono libero, disse K esitante. Sì, disse il pittore, ma libero solo in apparenza, o diciamo meglio, in libertà provvisoria. I giudici di grado inferiore, tra cui sono i miei conoscenti, non hanno infatti il diritto di assolvere in maniera definitiva. Questo diritto l'ha soltanto il Tribunale Supremo, irraggiungibile per lei, per me, per noi tutti. Come sia fatto non lo sappiamo e neppure, tra parentesi, vogliamo saperlo. I nostri giudici non hanno dunque il grande diritto di liberare dall'accusa, ma hanno il diritto di sciogliere dall'accusa. Ciò significa che quando lei è assolto in questo modo, per il momento è sottratto all'accusa. Ma questa continua a pendere sopra di lei e, non appena arriva un ordine superiore, può tornare subito in essere. Poiché sono in rapporto così buono con il tribunale, posso anche dirle come nei regolamenti degli uffici del tribunale si definisce esteriormente la differenza tra l'assoluzione reale e quella apparente. In una assoluzione reale, tutti gli atti processuali debbono essere eliminati. Scompaiono tutti dal procedimento. Non solo l'accusa, anche il processo e persino l'assoluzione vengono distrutti. Tutto viene distrutto. Con l'assoluzione apparente è diverso. Con questo atto non è avvenuto nessun cambiamento. Esso è stato solo arricchito della dichiarazione di innocenza, dell'assoluzione e della motivazione dell'assoluzione. Ma per il resto rimane attivo, come esige il movimento ininterrotto degli uffici del tribunale, viene trasmesso ai tribunali superiori, ritorna agli inferiori, continuando ad oscillare in modo più o meno accentuato, con arresti più o meno bruschi. Queste strade sono imprevedibili. Viste le cose dal di fuori, a volte possono dare l'impressione che tutto sia dimenticato da un pezzo, che l'atto sia perduto e la soluzione perfetta. Un iniziato non lo crederà. Nessun atto va perduto. Il tribunale non dimentica nulla. Un giorno, quando nessuno lo aspetta, un giudice prende in mano l'atto con maggiore attenzione, si avvede che in questo caso l'accusa è ancora viva e ordina l'arresto immediato. Ho qui supposto che tra l'assoluzione apparente e il nuovo arresto trascorra molto tempo. La cosa è possibile. E personalmente so di questi casi. Ma è anche possibile che l'assolto arrivi a casa dal tribunale e ci trovi già chi lo aspetta per arrestarlo di nuovo. Allora, naturalmente, la vita libera è finita. E il processo ricomincia da capo? Chiese K quasi incredulo. Certo, disse il pittore. Il processo comincia di nuovo, ma si riaffaccia anche la possibilità, come prima, di ottenere una soluzione apparente. Bisogna concentrare di nuovo tutte le proprie forze e non arrendersi. Il pittore disse queste ultime parole, forse sotto l'impressione che K, un po' abbattuto, faceva su di lui. Come per prevenire altre rivelazioni del pittore, K chiese: «Ma ottenere una seconda soluzione non è più difficile che ottenere la prima?» «Al riguardo», disse il pittore, «non è possibile dire nulla di preciso. Lei intende che i giudici con il secondo arresto sono influenzati nel loro giudizio a sfavore dell'imputato?» «Non è così. Già nella soluzione i giudici hanno previsto questo arresto. Tale fatto, dunque, non influisce. Ma per innumerevoli altre ragioni può darsi che l'umore dei giudici e anche la valutazione giuridica del caso siano cambiati, e i tentativi per la seconda soluzione debbono quindi adeguarsi alle diverse circostanze. E in generale, essere energici quanto quelli precedenti la prima soluzione.» «Ma questa seconda soluzione, neppure essa è definitiva?» disse K, girando riluttante la testa. «No, naturalmente», disse il pittore. «Alla seconda soluzione segue il terzo arresto, alla terza soluzione il quarto arresto e così via. Tutto questo è già nel concetto di assoluzione apparente.» K tacque. «È chiaro che la soluzione apparente non le sembra vantaggiosa», disse il pittore. «Forse le va meglio la procrastinazione. Vuole che le spieghi la natura della procrastinazione?» K annuì. Il pittore si era buttato all'indietro sulla sedia. La camicia da notte era largamente aperta. Aveva infilato una mano sotto di essa e si accarezzava il petto e i fianchi. «La procrastinazione», disse il pittore, guardando un momento davanti a sé, come se cercasse una spiegazione assolutamente giusta, «la procrastinazione consiste nel fatto che il processo si continua a tenere nel suo stadio più basso. Per raggiungere questo, è necessario che accusato e patrono, ma in particolare il patrono, rimangano senza interruzione in contatto personale con il tribunale. Qui non è necessario, ripeto, il dispendio di forze necessario per ottenere una soluzione apparente, ma è necessaria un'attenzione molto maggiore. Non si deve perdere di vista il processo. Bisogna andare dal giudice competente ad intervalli regolari e anche in occasioni particolari, cercando di conservarne in ogni modo il favore. Se non si conosce il giudice di persona, bisogna influire su di lui attraverso i giudici conosciuti, senza rinunciare con ciò ai contatti diretti. Se non si trascura niente di tutto questo, si può supporre con approssimazione sufficiente che il processo non andrà oltre il suo primo stadio. Il processo non finisce, è vero, ma l'imputato è sicuro di non essere condannato, quasi come se fosse in libertà. Rispetto alla soluzione apparente, la procrastinazione ha il vantaggio che il futuro dell'imputato è meno incerto. Gli è risparmiato il terrore degli arresti improvvisi e non deve temere di addossarsi le fatiche e le emozioni legate al raggiungimento della soluzione apparente, specie quando le altre circostanze sono meno favorevoli per questo. D'altra parte, anche la procrastinazione ha per l'imputato certi svantaggi che non si debbono sottovalutare. Non penso qui al fatto che l'imputato non è mai libero. In senso proprio, non lo è neppure con la soluzione apparente. Lo svantaggio è un altro. Il processo non può arrestarsi senza che ci siano motivi almeno apparenti. Nel processo, quindi, qualcosa deve accadere di fuori. Di tanto in tanto debbono essere presi certi provvedimenti. L'imputato deve essere interrogato, debbono essere fatte indagini e così via. Il processo deve continuare a ruotare nella piccola cerchia alla quale è stato ridotto di proposito. Naturalmente ciò comporta dei fastidi per l'imputato, che lei però non deve immaginare troppo gravi. Si tratta solo di cose esteriori. Gli interrogatori, per esempio, sono brevissimi. Quando non si ha tempo o voglia di andarci, si può addurre una giustificazione. Con certi giudici si possono persino stabilire di comune accordo le disposizioni molto in anticipo. In sostanza, si tratta soltanto, visto che si è imputati, di presentarsi ogni tanto al proprio giudice. Già durante le ultime parole, K aveva messo la giacca sul braccio e si era alzato. Già si alza! Esclamarono subito fuori dalla porta. Vuole già andare? Chiese il pittore, alzatosi a sua volta. È certo l'aria a cacciarla via di qui. Mi dispiace molto. Avrei ancora qualcosa da dirle. Ho dovuto essere molto breve, ma spero di essermi fatto capire. Oh sì, disse K, che aveva il mal di testa per lo sforzo compiuto nell'ascoltare. Nonostante questa conferma, il pittore riassunse ancora una volta tutto, quasi volesse consolare K sul cammino di casa. Entrambi i metodi hanno questo in comune, che impediscono una condanna dell'accusato. Impediscono però anche la soluzione reale, disse K a bassa voce, quasi si vergognasse di averlo scoperto. Lei ha compreso il nocciolo della questione, disse in fretta il pittore. K posò la mano sul cappotto, ma non si decise neppure a infilare la giacca. Avrebbe preferito fare un fagotto di tutto e correre fuori all'aria aperta. Neppure le ragazzine poterono indurlo a vestirsi, sebbene dicessero in anticipo una all'altra che lui stava vestendosi. Al pittore interessava interpretare in qualche modo lo stato d'animo di K, perciò disse: Lei non deve avere ancora deciso niente in merito alle mie proposte. La capisco. Io stesso l'avrei sconsigliata dal decidersi subito. Vantaggi e svantaggi può dirsi che non si distinguano. Bisogna valutare tutto con precisione. D'altra parte, non si può neppure perdere troppo tempo. Tornerò presto, disse K, che con decisione improvvisa infilò la giacca, si gettò il cappotto sulle spalle e si affrettò verso la porta, dietro la quale le ragazzine cominciarono a gridare. K credette di vedere attraverso la porta le ragazzine che gridavano. «Lei deve però mantenere la parola», disse il pittore che non l'aveva seguito. «Altrimenti vengo io stesso a cercarla in banca». «Apra la porta», disse K, scuotendo la maniglia che le ragazzine, come notò dalla resistenza opposta, stringevano dal di fuori. «Non vorrà essere infastidito dalle ragazzine», disse il pittore. Venga, si serva piuttosto di quest'uscita. E indicò la porta dietro il letto. K fu d'accordo e balzò di nuovo verso il letto. ma invece di aprire la porta, il pittore strisciò sotto il letto e chiese di là sotto: «Ancora un momento! Non vuol vedere ancora un quadro che le potrei vendere?» Cappa non volle essere scortese. Il pittore si era interessato davvero a lui e aveva promesso di continuare ad aiutarlo. Inoltre, con la sua smemorataggine, Cappa non aveva ancora parlato di compenso per questo aiuto. Non poteva quindi adesso opporre un rifiuto. Così si fece mostrare il quadro, anche se tremava dall'impazienza di uscire dallo studio. Il pittore trasse di sotto il letto un mucchio di tele senza cornice, coperte di polvere al punto che quando il pittore cercò di soffiarla via dal quadro posto sopra, turbinò a lungo davanti agli occhi di Cappa, levandogli il fiato. «Un paesaggio di brughiera», disse il pittore porgendogli il quadro. La tela rappresentava due deboli alberi, lontani l'uno dall'altro, in un'erba scura. Sullo sfondo era un tramonto multicolore. «Bello», disse Cappa. «Lo compro». Cappa si era espresso in fretta, senza volerlo. Fu quindi lieto quando il pittore, invece di prendere a male la cosa, sollevò dal pavimento un secondo quadro. «Ecco un riscontro di quello», disse il pittore. L'intenzione era forse quella di un riscontro, ma tra i due quadri non esisteva nessuna differenza. Qui erano gli alberi, lì l'erba, là il tramonto. Ma a Cappa non importava. «Sono bei paesaggi», disse. «Li compro tutti e due e li appenderò nel mio ufficio». «Il motivo sembra piacerle», disse il pittore sollevando un terzo quadro. «Per fortuna ho qui ancora un terzo quadro che è simile». Invece non era simile. Era la stessa identica brughiera. Il pittore sfruttava bene l'occasione per vendere vecchi quadri. «Prendo anche questo», disse Cappa. «Quanto costano i tre quadri?» «Ne parleremo un'altra volta», disse il pittore. «Lei adesso ha fretta. Tanto rimarremo in contatto. Sono contento che i quadri le piacciano. Le darò tutti i quadri che tengo qui sotto. Sono sempre paesaggi di brughiera. Ho dipinto tanti paesaggi di brughiera. A certuni questi quadri non piacciono perché sono troppo tristi. Ma altri, e lei è tra loro, amano proprio questa tristezza». Ma adesso Cappa non aveva nessuna comprensione per le esperienze professionali del pittore mendicante. «Faccia un pacco di tutti i quadri», esclamò troncando il discorso in bocca al pittore. «Domani verrà il mio commesso a prenderli». «Non è necessario», disse il pittore. «Spero di procurarle un facchino che venga subito con lei». E finalmente si curvò sopra il letto e aprì la porta. «Salga pure senza riguardi sopra il letto», disse il pittore. «Lo fanno tutti quelli che entrano qui». Anche senza questo invito, K non avrebbe avuto scrupolo. Aveva già messo un piede in mezzo al piumino, allorché guardò attraverso la porta aperta e trasse di nuovo indietro il piede. «Che cos'è?» chiese al pittore. «Di che si meraviglia?» chiese quello meravigliato a sua volta. «Sono gli uffici del tribunale. Non sapeva che qui ci sono uffici del tribunale? Uffici del tribunale sono quasi in ogni solaio. Perché dovrebbero mancare proprio qui? Anche il mio studio, a rigore, appartiene agli uffici del tribunale. Il tribunale me l'ha messo a disposizione». K non era spaventato per aver trovato anche lì uffici del tribunale. Era spaventato soprattutto di sé, della sua ignoranza in materia giudiziaria. Norma fondamentale per il comportamento di un imputato gli sembrava quella di essere sempre pronto a tutto, di non lasciarsi mai sorprendere, di non guardare ignaro a destra quando il giudice gli stava a sinistra. E invece contravveniva sempre proprio a questa norma fondamentale. Davanti a lui si apriva un lungo corridoio dal quale veniva un'aria che faceva sembrare fresca quella dello studio. Ai due lati del corridoio erano disposte panche, proprio come nella sala d'aspetto dell'ufficio competente nel caso di K. Dovevano esserci regolamenti precisi per l'allestimento degli uffici. Per il momento, lì non c'era un gran movimento di imputati. Un uomo sedeva semisdraiato, aveva nascosto il viso nelle braccia, posate sulla panca, e pareva dormire. Un altro stava in piedi nella penombra, all'estremità del corridoio. Ora K salì sopra il letto. Il pittore lo seguì con i quadri. Trovarono presto un usciere. K adesso riconosceva gli uscieri del tribunale dal bottone d'oro che avevano tra i bottoni comuni del loro abito borghese. E il pittore gli dette l'incarico di accompagnare K con i quadri. K barcollava più che camminare, il fazzoletto premuto contro la bocca. Erano già vicini all'uscita quando corsero loro incontro le ragazzine, che così non furono risparmiate a K. Dovevano aver visto che era stata aperta la seconda porta dello studio e avevano fatto il giro per entrare da quella parte. «Non posso più accompagnarla!» esclamò ridendo il pittore circondato dalle ragazzine. «Arrivederci e non pensi troppo!» K non si voltò nemmeno a guardarlo. In strada prese la prima vettura che gli capitò. Voleva sbarazzarsi dell'usciere, il cui bottone d'oro gli feriva di continuo la vista, anche se non doveva essere notato da nessuno. Nel suo zelo, l'usciere volle persino sedere a cassetta, ma K lo cacciò giù. Mezzogiorno era passato da un pezzo quando K arrivò davanti alla banca. Avrebbe lasciato volentieri i quadri nella vettura, ma temeva di essere costretto in qualche occasione a servirsene per farsi riconoscere dal pittore. Perciò li fece portare nel suo ufficio e li chiuse nell'ultimo cassetto della sua scrivania, perché almeno nei giorni seguenti fossero al sicuro dagli sguardi del vice direttore. Thank you.